nuovo, eccetera, che ci hanno anche il baracchino, stiamo parlando in banda laterale nei canali bassi, ma credo di non disturbare nessuno. Poi io non sento nessuno, purtroppo, se no, se mi accorgo che c'è qualcuno che sta disturbando, spero di fare qualcosa, ma io esco sempre così, non è che esco peggio o meglio, capito? Va bene. D'accordo Luca, non è successo niente, era solo un'interrogazione a te, rivolta a te, poi degli altri non mi ha fatto proprio niente, perché io non disturbo nessuno e nessuno mi disturba. Mi dava un po' fastidio se stavo disturbando a te, capito? Perché tu cazzo gioco usci lontano. No, io ieri la verità poi una finale mi stavo a parlare, volevo entrare, avvisare a Franco se poteva fare qualcosa. Solo che non mi andava a rientrare a disturbare il vostro QFO, perché magari poi fatti fa la scintilla, se non faccio più fatto, vabbè, non ci sono niente, tranquillo. Scappa, avanti Mario. Scappa, ciao qua. Oh, è così, io ti capisco, però vedi, a me fa mai una schiena, ma ci vengono a travagliare ma stessi, quindi. Ah, oh, Mario, così, mi ha dato un po' fastidio il fatto che mi hanno messo in mezzo, io non ho parlato a nessuno, rispetto ribadito, io sto parlando con degli amici radioamatori in un altro canale, perché mi hanno messo in mezzo, stiamo chiacchierando di cose nostre, di altre cose anche, e niente, però non mi va, insomma, che quello di stronzata sia fatto mio nome, ecco perché. Come sapete, riferiscono a voi, ma riferiscono anche a me, perché c'è gente che ascolta e mi riferisce, quindi mi ha dato un po' fastidio, sinceramente, no? Questione di maleducazione, io non so chi l'ha detto, non me ne ha fatto nulla, che io non so come l'ha educato, quindi no, non mi interessa, però cerchiamo di correggerci ogni tanto, perché anche io ne ho preso dei colpi nella vita, eppure non sono mai andato a rompere le spalle a nessuno, sì. Mi prende i colpi, si arrangerà e vedrà di vedersela con chi sta disturbando. Io non disturbo nessuno, punto e basta. Vabbè, buon consiglio a tutti, vado a pranzo, va, ci sentiamo al limite più tardi. Ciao, riprendi anche tu. Oh, clac, comunque sia. Se ho qualcosa da dire, sicuramente la discurrire, non c'è problema. Sì, vado a sentire a fare indocurati, però io volevo entrare, perché cazzo è una cosa micidiale, domani entravo con un battolo, perché gli anni a me me la gribendi, poi come stavo a sbattere, come sono sentiva, poi il Mario mi ha detto, ma ci siamo un po' arrangiati, studendo un po' le manopole, via. Però sta tranquillo, se non vediamo una cosa te la dico, non c'è problema, se non ti dubbi di là me la dica a te, non è sto lì a dire, ehi, Claudio qua, cuglione, Claudio Ista della, no, se non te la dico. Ma infatti, oramai abbiamo, ci siamo detti che dobbiamo fare così, no, quando abbiamo un problema, soprattutto io e tu, bisogna discuterne di persona, bisogna, come ho fatto l'altra volta, siamo sentiti al telefono, fatto il tubo. Abbiamo detto chi c'era, chi non c'era, ha detto boh, non c'è Luca che aveva bisogno magari di me o stavo riformando anch'io. Vabbè, lui va tutti bene, non è successo niente, dai. Si continua ad andare avanti. Dai, riprendi Mario, che è quello attratto. Qua la carica è giusto. Dall'altra la riascoltiamo stasera, perché poi io quando riprendo il supporto non ci sono, non sono già al lavoro. Ve la dite che ero qui male, ve lo dico, dai, ci l'ha detto, perciò non c'è problema, cappa, cappa, tanto ancora buono, ma non siamo andati a mangiare, sto fame, ragazzi, per mangiare domani la pasta rossa, e vabbè, Roberto, ma chi sei? Non è che è tanto perché anche io a me non faccio, io scappo. Non c'è problema, comunque lui, ma io anche io potrei fare la pescare, se ce la faccio, guarda, c'è una giornata così bella, dice che te la pesca, non mi ricca la mano. Gianni, diciamo che tutte le attenti che il tuo lavoro venga male, non ti sia le tue energie, potresti pure farlo, come potresti farlo, visto che esci da lì, a quell'ora magari ti potrai tenere fino alle 9 per dire due ore, puoi farlo, ma questo non io che esco 6:30, pigliare la macchina, scendere a portatore, mettermi lì a pescare, e poi fare che cosa? Per 2 ore, non vale la pena, capito? Se l'ho fatto lì lavorando, allora sì, ma avevo contatto la portatura, magari 2 ore, 2 ore e mezzo, mi sarei trattenuto, ma scendere a posto, consumare benzina, prendere i soldi si può evitare, sicuramente non è che io posso. Perché tu io le domani devo lavorare e siccome io sono molto a sorpresa e oggi sono a casa di sentire, ma magari domani mi manda la nuova a casa che è di vedere, capisci, così c'è le cose, ma due ore Gianni, ma ieri ci avevi qualcosa con me? No, con te. Il problema non mi sembra un abbattimento, cioè ho detto solo che ho fatto questo facendo abbattimento e tutto sono stato avvisato, quindi ho fatto così, potrei ammazzare qualcosa, ma ha detto che non ero fuori frequenza, buco, non mi sentiva. Ma vabbè, siccome ieri stamattina mi sono fatto riferire a alcune cose, pensavo che non riferisse a me tutto, va bene? No, ma niente di cosa, manco con Franco, e io che se sono la sorpresa io ho fatto ammazzare qualcosa perché mi stava strappando a morte, che la mamma era serata e invece dice che ero fuori qualcosa, non mi sentiva, come al solito, se non si può nemmeno parlare di mandare a serata. Proprio comunque, non c'è problema. No, ma con te io non sapevo niente, io se c'è qualcosa con te te la dico, infatti, già l'usare. E poi le cose di Felipe, tra le cose, sempre che volto non ascolta qua, Claudio. Se qualcuno ci vuole chiamare, ci richiama sempre. Ma infatti, vedi, io prima lingua ne ho detto a Luca, ho detto a Roberto, se c'è una chiesa. Siccome so con chi ha a che fare, per me, quello che mi è stato riferito mi ha aperto un orecchio e mi è uscito da là. Va bene, proseguite. Io non ero di aver detto che mi devo fare, che mi stavano fastidio a Franco, che mi stavano facendo da battimento, ma niente di più. Nemmeno contro di lui ho detto niente di... Se no me lo fa sentire registrato quello che te l'ha riferito. E comunque ti sa, no, che quando uno va a mandare la pedale ti sono messo il canale. Naturalmente sei vicino tu, ma non mi faccio io abbattimento per me, se ti devo solo stanco, basta perché era vicino. D'accordo, dai, mi prendo io. Ciao, a me. Buon lavoro, buon tutto, se la riesco a chiamare più. Yeah. voi giustamente sicuri, perché intanto la radio si ce l'hai dove c'è il mio studio e niente. Adesso lo vediamo, no, ma di casino mi piace un po' per scarame, no? Non si riesce a venire, ho provato a comprare tante cose, ma non mi danno soddisfatto da me. Non mi soddisfano, mi piace vedere i tizi, se lo sa. Guarda, io sto mangiando, non sto pensando ai domicili ora. E comunque io uso quelli grossi. Uso gli americani, quelli grossi, se no non è voglio. Ah, è già pagata. Alla bella media. No, io ripeto, facendo le due ore quelle lì, manca a consumare la benzina, perché esce alle 7, si mette in macchina, mette benzina, una cosa e l'altra, scende giù, e poi è già una delle risalite, una cosa che andiamo a fare. Allora andiamo a filmare. Ma cosa, ho trovato un amico che pescava sempre con me, uno che ho conosciuto lì, mi ha detto già, vai a Molo Asi che stanno mangiando un bel calamari, e devi venire, devi prendere un bel. Ah, certo. Però, non ti ho detto la stessa cosa, tu sei lì, cioè sono conto, capito, non ti costa nulla, cioè, si tratta di fare 200 metri, scendere lì al porto, e boom. Perché sei già lì sulla strada, ma io scendere da qui non mi viene bene, cioè, e mi invecchierì una spesa qui alla tazza, fa niente. Ma no, io non sto facendo quello, vabbè, lo puoi fare un sabato, che io invece che scendere da casa e a quella lì direttamente si fa un po' di ore là. E un capo, come tu hai deciso l'altra volta, che sei venuto, sei trovato lì, siamo stati a fare e poi siamo rientrati, ma non capisco. Io se devo scendere, io c'è un giro il sabato, sono libero, dopo che c'ero, che mi sono fatto quel pochettino di provviste per la settimana, perché tu lo sai che qui in settimana io sono troppo contatto, lì sto giusto 10 minuti in radio e sto mangiando e parlando alla radio, tutto lì. Però perché mi fa compagnia, non per altro. E niente. Poi il sabato sera potrei andare, mettermi lì, a pescare, fare, e magari anche trattenermi un po', capito? Poi a quell'ora me ne potrei rientrare pure, mi potrei venire pure lì in macchina. Anche la domenica mattina sono alle 9:30 poi a quell'ora lì si rientra pure. Pappaga. Vediamo, anche lui come stava dicendo che lui ha fatto qualche lascia che lì. Capo, vabbè, ma lui momentaneamente quindi non è ha, c'è molto tempo a disposizione, potrebbe pure scendere con la moto, lui che si sta la passione. Io mi divertirò a me, vabbè, al mezzo in classe, a Trio ho un paio di giorni più liberi, perché io devo capire che c'è tenuta la fiera e che c'è un po' di tempo, così che qui c'è fatto partenza e mezzo e così che c'è qualche giorno in più, però non è detto perché c'è qualche giorno in più. Se si può andare, si può andare, se non si può andare, non si vada. Tutto lì, capito? Prima il dovere è sempre, perché se non avviene il dovere, poi a fine mese, quindi sono dimenticati, ed è un casino, un caro Gianni. Pappagallo. Non mi sento fare niente, quindi mi sono rimasto per caricare di là, ma per rimanere sotto, magari, ma se mi sento fare un viaggio, cosa faccio fare, non c'è problema. cose che non sono inquinate e tutto qua. Hai capito, ma con qui da noi sono inquinate. Allora, noi abbiamo il più mare dell'Europa. Perché è bello, tranquillo, niente. Poi si c'è vento, ma sono associato di vento e forse via tutto, non è come quelli che stanno incontrando dall'atmosfera che si sentiva di brutto. Io da noi viene un colpo di vento perché mi ha fatto la scopa e forse via tutto. E non so quanto. Ce ne sono così tirata che qua. Tipo Polacchi. Ma no, non è vero niente, io si è inquinato, non ci credo. Sì, beh, un po' quelle cose, cioè perché c'è sempre un posto. Il posto purtroppo così le navi arrivano, tutta l'acqua e scaricano tutto qua così, capito? Non è che quando fanno le pulizie tutta l'acqua della Mondezza, della Sella, la buttano lì giustamente. Però non è che sia inclinato a dire che viva quello o quell'altro, perché se per quello anche noi fischiamo e tutto quanto va male lì, anche se c'è il depuratore che finisce, Ma so, ma il fenolo però della firma lo conosci? Ah, quello fenolo, se ci fosse stato fenolo come stai dicendo tu, poi la terra tutti sarebbe morta. Eppure non è così, dai. Sì, è sempre meglio non pescare, perché giustamente è meglio non pescare perché si sta all'interno di un posto e diciamo che non c'è un massimo della pulizia. Però è meglio di andare a Zoro o di andare in tanti altri posti, che quello è molto figlio. Lì sì che c'è il fenolo veramente. Ma io te lo dico perché lo so, conosco gente che fa le analisi lì, e me l'hanno detto loro, mi hanno detto continua ad andare a pescare, se andate prima che è molto meglio che andare là, perché là c'è fenolo, piombo, di tutto c'è, se li scarichi della fibra lì, hanno loro. E se passare nel ricordo quando parte la lama, quando resta la schiuma, che non scompare, quando parte la lama ci sono la schiuma sulla notte, rimane per un bel po'. Non si fa piano piano, come il loro. No, quello cercato, infatti quando cercando voglio fare anche con i pantaloncini e quelli tipo mosse, che non ci vogliono, non ci vuole niente, metto quelli e basta. Poi anche se mi bagno le gambe non succede nulla, cioè si sa. Quindi metto anche la barca e vado. Intanto con la foto mi allontano qualche chilometro e poi mi metto a pescare e ci passerò un tempo così. Ma allora, dopo un po' di distanza, perché sono io, so che già ora di andare in